Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accani e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti. Il programma prevede di parlare di problemi primari, nonché di cose che abbiano a che fare con la pila e senza le pile, e della tirannide degli antichi e dei moderni.